La ringrazio per le sue buone intenzioni, signora Davis, disse il signor Meredith con un tono tanto cortese quanto terribile e definitivo. Ma non posso darle mia figlia. La signora Davis lo fissò perplessa. Non si aspettava minimamente quel rifiuto. Ma perché, signor Meredith? Chiese stupefatta. Voglio dire, non dirà sul serio? Ci pensi? Pensi a tutti i vantaggi che potrei offrirle? Non ho bisogno di pensarci, signora Davis. È fuori questione. Tutti i vantaggi che lei potrà mai offrirle non potrebbero mai compensare la perdita dell'amore e delle cure di un padre. La ringrazio di nuovo, ma non se ne parla. La delusione fece irritare la signora Davis al punto da farle dimenticare la sua abituale compostezza. Il viso da rosso si fece paonazzo e la sua voce prese a tremare. Pensavo che sarebbe stato felice di darla a me. E perché mai? Chiese pacato il signor Meredith. Perché nessuno crede che gliene importi granché dei suoi figli, rispose sprezzante la signora Davis. Li trascura in un modo scandaloso, ne parlano tutti. Non mangiano e non si vestono come si deve e nessuno li educa. I loro modi sono all'incirca quelli di un gruppo di indiani selvaggi. Non le passa mai per la testa di assolvere ai suoi compiti di padre. Ha permesso a una ragazzina vagabonda di vivere insieme a loro per 2 settimane senza nemmeno accorgersene. E stiamo parlando di una ragazzina che impreca come un marinaio, mi hanno riferito. Non le sarebbe importato nemmeno se avesse attaccato loro il vaiolo. Faith poi ha dato spettacolo alzandosi nel bel mezzo della preghiera per fare quel discorso. E l'è passata davanti in groppa a un maiale, se ho ben capito. Si comportano in una maniera indicibile e lei non alza un dito per fermarli o per provare a insegnar loro qualcosa. Io ho appena offerto a una di loro una bella casa e delle ottime prospettive e lei mi ha offesa con un rifiuto. Ma che razza di padre è per mettersi a parlare di amore e cure per i figli? Adesso basta, donna, disse il signor Meredith. Si alzò in piedi e lanciò alla signora Davis uno sguardo che la fece tremare. Adesso basta, ripeté. Non ho intenzione di ascoltarla oltre, signora Davis, ha detto davvero troppo. Può darsi che sia stato manchevole nel mio compito di genitore, ma non sta a lei farmelo notare, e non in questo modo. Pertanto, credo sia giunto il momento di augurarci un buon pomeriggio. La signora Davis non espresse esattamente un augurio. Né niente di altrettanto cortese, ma fece per andarsene, e mentre passava davanti al pastore, un grosso rospo paffuto che Carl aveva nascosto sotto il divano le saltò quasi sui piedi. La signora Davis cacciò un urlo e per evitare di calpestarlo perse l'equilibrio e l'ombrellino. Non cadde a terra, ma ondeggiò e barcollò per tutta la stanza in maniera molto poco dignitosa, fino a schiantarsi contro la porta con un tonfo che la scosse dalla testa ai piedi. Il signor Meredith, che non aveva visto il rospo, si domandò se fosse stata colta da una sorta di colpo apoplettico o di convulsioni e accorse subito ad assisterla. Ma la signora Davis, rimessasi in piedi, lo allontanò gesticolando furiosamente. Non si azzardi a toccarmi, disse quasi gridando. Anche questo deve essere opera dei suoi figli, immagino. Questa casa non è posto per una signora. Mi dia l'ombrello e mi lasci andare. Non metterò mai più piede nella sua canonica o nella sua chiesa. E il signor Meredith raccolse umilmente da terra l'ombrellino e glielo porse. La signora Davis lo afferrò e marciò fuori. Jerry e Carla avevano finito di scivolare sul corrimano ed erano seduti sulla ringhiera della veranda con Faith. Sfortunatamente tutti e tre stavano cantando a pieni polmoni con le loro giovani voci una canzone che faceva "Che brutta faccenda stasera in città!" E la signora Davis, credette che si rivolgessero a lei, si fermò e gli agitò contro l'ombrello. "Vostro padre è un idiota!" disse. "E voi tre siete giovani delinquenti a cui dovrebbero darle di santa ragione!" "Papà non è un idiota!" sibilò Faith. "E noi non siamo delinquenti!" le fecero eco i ragazzi. La signora Davis se n'era già andata. Santo cielo, è matta, disse Jerry. E comunque cos'è esattamente un delinquente? John Meredith camminò avanti e indietro nel salotto per qualche minuto, poi tornò nel suo studio e si sedette, ma non riprese il suo libro di teologia, era troppo turbato. La signora Davis gli aveva dato una bella svegliata. Era davvero il padre negligente e distratto che lei l'aveva accusato di essere? Aveva trascurato in maniera così scandalosa il benessere fisico e spirituale delle quattro creaturine orfane di madre che dipendevano da lui. E E davvero la gente lo giudicava così duramente come aveva detto la signora Davis? Doveva essere vero, dal momento che lei era venuta a chiederle una pienamente convinta che gliel'avrebbe consegnata volentieri senza problemi, come fosse un gattino indesiderato trovato per strada. Ma allora cosa doveva fare? John Meredith brontolò e riprese a camminare avanti e indietro nella stanza disordinata e polverosa. Cosa poteva fare? Amava profondamente i suoi figli come qualsiasi padre di sua conoscenza, e nonostante quel che diceva la signora Davis e chiunque altro come lei, sapeva che anche loro lo amavano. Ma lui era adatto ad essere responsabile per loro? Conosceva bene le sue debolezze e i suoi limiti. Quel che gli serviva era la presenza, l'influenza e il buon senso di una brava donna. Ma come fare? Se avesse trovato una governante del genere, zia Marta ne sarebbe stata distrutta. Era convinta di essere ancora in grado di fare come si deve tutto ciò che era necessario in una casa, e lui non poteva ferire o insultare quella povera vecchia signora che era stata così gentile con lui e i suoi figli, e quanto aveva voluto bene a Cecilia. Lei gli aveva chiesto di avere un occhio di riguardo per la zia Marta. In quel momento, a dire la verità, il signor Meredith ricordò all'improvviso che la zia Marta una volta aveva accennato al fatto che lui dovesse risposarsi. Aveva l'impressione che una moglie non l'avrebbe irritata quanto una nuova governante, ma era fuori questione. Non desiderava risposarsi, non gli importava di nessuna, non poteva. Ma allora cosa poteva fare? Tutt'a un tratto gli venne in mente di andare a Ingleside a parlare delle sue difficoltà con la signora Blythe. Lei era una delle poche donne con le quali lui non era intimidito né taciturno. Era una presenza sempre comprensiva e ristoratrice. Forse poteva suggerirgli una soluzione ai suoi problemi. Ma se anche non fosse stato così. Il signor Meredith aveva bisogno di una compagnia umana decente dopo essersi sorbito la signora Davis. Qualcuno che fosse in grado di purificare la sua anima dal gusto amaro di quella conversazione. Si vestì in tutta fretta e mangiò meno distrattamente del solito, al punto da accorgersi che il pasto era decisamente magro. Guardò i suoi figli. Sembravano tutti sani e robusti, tranne una, ma lei era sempre stata una bambina fragile, anche quando sua madre era viva. Ridevano e chiacchieravano e avevano un'aria indiscutibilmente felice, in particolare Carla, che aveva trovato due bellissimi ragni che ora passeggiavano intorno al suo piatto. Le loro voci erano piacevoli. E i loro modi non gli parevano sgarbati, erano premurosi e gentili l'uno con l'altro. Eppure, secondo la signora Davis, tutta la parrocchia non faceva che parlare del loro comportamento. Ah! Non appena uscì dal cancello, il signor Meredith vide passare il dottor Blythe e sua moglie in calesse, diretti verso Lowbridge. Si incupì all'istante. La signora Blythe era via, non aveva senso andare a Ingleside. Ma aveva così tanto bisogno di compagnia. Mentre scrutava disperato l'orizzonte, la luce del tramonto si posò su una finestra della vecchia casa dei West in cima alla collina e brillò rosea come un faro di speranza. Il signor Meredith ricordò all'improvviso Rosemary ed Ellen West e pensò che un po' della conversazione tagliente di Ellen potesse fargli bene. Inoltre sarebbe stato bello rivedere il dolce, placido sorriso di Rosemary. L'azzurro celestiale dei suoi occhi. Come diceva quella vecchia poesia di Sir Philip Sidney, il conforto perpetuo di un volto. Ecco, le si addiceva proprio. E lui aveva bisogno di conforto. Perché allora non farle una visita? Ricordò che Ellen gli aveva chiesto di passare ogni tanto e lui doveva comunque riportare il libro a Rosemary. Pensò di farlo prima di dimenticarsene. Aveva lo spiacevole sospetto che nella sua biblioteca ci fossero diversi libri che aveva preso in prestito in una gran quantità di occasioni e luoghi e che aveva dimenticato di restituire. Doveva fare in modo che in questa circostanza non accadesse. Tornò quindi nel suo studio, prese il libro e si avviò lungo il pendio della valle dell'Arcobaleno. Ancora pettegolezzi. La sera del funerale della signora Mira Murray, che viveva dall'altro lato della baia, la signorina Cornelia e Mary Vance fecero visita a Ingleside. L'animo della signorina Cornelia era carico di diverse preoccupazioni di cui desiderava liberarsi e ovviamente doveva discutere del funerale. Lo fece con Susan poiché Yanna non partecipava mai a quel genere di conversazioni un po' macabre che non l'appassionavano. Se ne stette seduta un po' distante ad ammirare il fiammeggiare autunnale delle dahlie nel giardino e il fascino sognante di quel tramonto di settembre sulla baia. Mary Vance era seduta accanto a lei a lavorare a maglia con aria abbattuta. Il suo cuore era giù, nella valle dell'arcobaleno, dalla quale giungevano le risate dolci e lontane dei bambini, ma la signorina Cornelia teneva le sue dita sotto controllo. Prima di poter scendere nella valle, doveva completare un determinato numero di giri di maglia, perciò Mary continuò a sferruzzare in silenzio, ma con le orecchie ben aperte. «Non ho mai visto un cadavere più grazioso», dichiarò la signorina Cornelia. Mira Murray è sempre stata una donna graziosa. Era una Corey di Lowbridge e i Corey sono famosi per il loro bell'aspetto. Quando le sono passata davanti, ho detto: Povera donna, spero che tu sia felice come sembri, sospirò Susan. Non era cambiata quasi per nulla. L'abito che indossava era quello di satin nero che aveva preso per il matrimonio di sua figlia 14 anni fa. Sua zia all'epoca le aveva detto di tenerlo da parte per il suo funerale, ma Mira le aveva risposto con una risata. Magari lo indosserò al mio funerale, zietta, ma prima ho intenzione di godermelo. E devo dire che l'ha fatto. Mira Murray non era una di quelle che si fanno il funerale prima ancora di morire. Tutte le volte che la vedevo divertirsi in compagnia con quell'abito indosso, pensavo tra me e me: sei una donna molto bella, Mira Murray, e quell'abito ti dona, ma alla fine sarà il tuo sudario. E vede, signora Elliot, alla fine la mia profezia si è avverata. Susan fece un gran sospiro. Si stava divertendo immensamente. I funerali erano un delizioso argomento di conversazione. Ero sempre felice di incontrare Mira, disse la signorina Cornelia. Era sempre così allegra e felice. Bastava stringerle la mano per sentirsi subito meglio. Rendeva tutto più bello. È vero, confermò Susan. Sua cognata mi ha rivelato che quando il dottore ha detto che non c'era più niente da fare e che non si sarebbe più alzata da quel letto, Mira ha risposto allegra: Beh, se le cose stanno così, sono felice di aver già preparato tutte le conserve della stagione e di non dovermi occupare delle pulizie di inizio autunno. Quelle di primavera mi piacciono, ha detto, ma ho sempre odiato quelle autunnali e quest'anno me le risparmierò, grazie al cielo. Qualcuna potrebbe accusarla di superficialità, signora Elliot, e io credo che sua cognata si vergognasse un po' di quella risposta. Ha detto che forse la malattia le aveva annebbiato il cervello, ma io le ho risposto: No, signora Murray, non si preoccupi, Mira era così, guardava sempre al lato positivo. Sua sorella Luella invece era l'esatto opposto, disse la signorina Cornelia. Per lei il lato positivo non esisteva proprio. Il mondo era tutto nero con qualche sfumatura di grigio. Per anni ha affermato che le restasse appena una settimana di vita. Non resterò a tediarvi a lungo, brontolava la sua famiglia. E se qualcuno di loro osava parlare di qualche progetto futuro, brontolava di nuovo e diceva: Ah, io non ci sarò più. Quando andavo a trovarla, mi dichiaravo sempre d'accordo con lei. E lei si infuriava così tanto che nei giorni successivi stava sempre un po' meglio. Mira era così diversa. Sapeva sempre dire o fare la cosa giusta per rincuorare gli altri. Forse c'entrano anche gli uomini che hanno sposato. Il marito di Luella era un vero barbaro, credete a me. Invece Jim Murray era un brav'uomo, per quanto può esserlo un uomo. Oggi mi è sembrato proprio a pezzi. Non mi capita spesso di dispiacermi per il marito al funerale di una donna, ma mi sono dispiaciuta per Jim Murray. Non mi stupisce che fosse triste. Una come Mira non la ritroverà, disse Susan. Ma magari non ci proverà neanche. I suoi figli sono tutti grandi ormai e Mirabel sa come tenere in ordine una casa. Ma è impossibile prevedere cosa farà o non farà un vedovo e io non ho intenzione di tirare a indovinare. Ci mancherà Mira in parrocchia, disse la signorina Cornelia. Era una gran lavoratrice, non c'era niente che potesse fermarla. Se non riusciva a superare un ostacolo, lo aggirava. E se non poteva aggirarlo, fingeva che non ci fosse proprio. E di solito era così. Voglio camminare a testa alta fino alla fine del mio viaggio, mi ha detto una volta. Beh, adesso il suo viaggio è finito. Davvero? Chiese tutta un tratto Anna, tornata dal mondo dei sogni. Io non riesco a pensare che sia finito. Ve la immaginate seduta immobile con le mani giunte, proprio lei, con il suo spirito appassionato e curioso, con quella sua aria avventurosa? No, io sono convinta che la morte per lei sia stata solo una porta che si apriva su nuove scintillanti avventure. Forse, forse, consentì la signorina Cornelia. Sai, Anna cara, neanche a me questa storia del riposo eterno ha mai fatto impazzire troppo. Spero che non sia un'eresia dirlo. In paradiso vorrei tenermi occupata proprio come qui e spero che ci sia qualcosa di analogo alle torte e alle ciambelle lassù, qualcosa che bisogna fare. Certo, a volte ci si ritrova terribilmente stanche e più si invecchia, più si è stanche, ma anche la persona più stanca del mondo non ha bisogno di tutta un'eternità per riprendersi, tranne forse gli uomini veramente pigri. Quando rivedrò Mira Marrei, disse Anna, vorrei che mi venisse incontro ridendo e a passo svelto, proprio come faceva qua. Oh, signora dottora cara, disse Susan scioccata, non penserà davvero che Mira riderà nell'aldilà? E perché no, Susan? Pensi forse che sia un luogo di pianti? No, no, signora dottora, non mi fraintenda. Penso che lì non si pianga e non si rida allo stesso modo. E allora che si fa? Beh, disse Susan incalzata, secondo me, signora dottora cara, ce ne staremo lì tutti santi e solenni. E basta. E secondo te, disse Anna con aria moderatamente solenne, io o Mira Marrei potremmo mai riuscire a mantenere un contegno santo e solenne per tutto il tempo? Beh, ammise Susan riluttante, in effetti voi due forse potreste sorridere di tanto in tanto, ma non riuscirà mai a farmi ammettere che in paradiso si possa ridere. Mi sembra un'idea irrispettosa, signora dottora cara. Beh, per tornare con i piedi per terra, disse la signorina Cornelia, a chi potremmo chiedere di sostituire Mira alla scuola domenicale? Da quando si è ammalata ci ha pensato Giulia Clau, ma quest'inverno tornerà a casa e dovremo chiedere a qualcun altro. Ho sentito dire che la signora Jamison si era proposta, disse Anna. I Jamison frequentano regolarmente la chiesa da quando si sono trasferiti da Glen a Lowbridge. Novellini, disse dubbiosa la signorina Cornelia. Dategli un anno e vedremo. Non può fidarsi della signora Jamison, signora dottora cara, disse Susan solenne. Una volta è morta e mentre se ne stava lì sdraiata, immobile e bellissima, a farsi prendere le misure per la bara, beh, non è tornata in vita. Insomma, signora dottora, non ci si può fidare di una donna del genere. Potrebbe diventare metodista da un giorno all'altro, disse la signorina Cornelia. Ho sentito dire che frequenta la chiesa metodista di Lowbridge, tanto quanto quella presbiteriana di qui. Ancora non li ho beccati ad andare lì, ma non approvo che la signora Jamison insegni alla scuola domenicale. Però non dobbiamo offenderla, stiamo perdendo troppe persone, alcune perché muoiono, altre per via del loro brutto carattere. La signora Davis ha lasciato la parrocchia e nessuno sa perché. Ha detto al comitato che non aveva intenzione di pagare un solo centesimo dello stipendio del signor Meredith. Ovviamente tutti dicono che devono essere stati i suoi figli a offenderla, ma io non credo. Ho provato a chiedere a Faith, ma tutto quello che ho saputo da lei è che la signora Davis è venuta a trovare suo padre, apparentemente di buon umore, e se n'è andata infuriata chiamandoli delinquenti. Delinquenti? Non mi dica, disse Susan furiosa. La signora Davis ha forse dimenticato che un suo zio da parte di madre è stato sospettato di aver avvelenato sua moglie? Non che l'abbiano mai dimostrato, signora dottora cara, e certo non sta bene credere a tutto quel che si sente in giro, ma se io avessi uno zio la cui moglie è morta senza alcuna spiegazione certa, beh, non me ne andrei in giro a chiamare delinquenti dei bambini innocenti. Il punto, disse la signorina Cornelia, è che l'offerta della signora Davis era molto generosa. Non averla più sarà un problema? E se per caso dovesse convincere gli altri del clan Douglas a mettersi contro il signor Meredith, come proverà certamente a fare, e lui sarà costretto ad andarsene. Non credo che la signora Davis sia molto amata in famiglia, disse Susan. Non penso proprio che sia in grado di influenzare gli altri. I Douglas, però, sono molto compatti. Toccane uno e li hai toccati tutti. E senza di loro non ce la faremo mai. Pagano metà dello stipendio. Si può dir molto su di loro, ma non è gente cattiva. Anni fa, prima che se ne andasse, Norman Douglas lasciava $100 alla parrocchia. E perché se n'è andato? Chiese Anna. Ha detto che un membro del comitato lo aveva truffato nella vendita di una mucca. Sono 20 anni che non mette piede in chiesa. Sua moglie veniva regolarmente quando era viva, poverina, ma lui le aveva vietato di dare soldi, a parte un centesimo la domenica. Lei la viveva come una terribile umiliazione. Non credo sia stato un marito particolarmente bravo per lei, anche se non l'ho mai sentita lamentarsi, però aveva sempre un'aria mogia mogia. 30 anni fa Norman Douglas non è riuscito ad avere la donna che voleva e i Douglas non sono mai contenti con le seconde scelte. E chi era la donna che voleva? Ellen West. Non sono mai stati fidanzati ufficialmente, credo, ma si frequentarono per un paio d'anni e poi smisero, nessuno sa perché. Immagino si sia trattato di uno stupido litigio. Norman allora, prima ancora di aver sbollito la rabbia, sposò Esther Reese solo per infastidire Ellen, ne sono sicura. Tipico degli uomini. Esther era una creaturina gentile, ma non ha mai avuto molta spina dorsale e il poco che aveva lui gliel'ha distrutto. Era una donna troppo remissiva per Norman. Lui aveva bisogno di qualcuno che gli tenesse testa. Ellen l'avrebbe tenuto al posto suo e lui l'avrebbe amata ancor più per questo. La verità è che disprezzava Esther, proprio perché lei gliele dava tutte vinte. Tempo fa, quando era giovane, l'ho sentito dire: "Voglio una donna che abbia fegato e che me le canti tutto il giorno." E poi è andato a sposarsi una ragazza che non avrebbe saputo cantarle nemmeno a un agnellino. Nella famiglia Reese sono tutti così, senza carattere. Vanno avanti nella vita, ma non vivono veramente. Russell Reese usò la fede nuziale della prima moglie per sposare la seconda, ricordò Susan. Se vuole sapere la mia, signora dottora, va bene risparmiare, ma così è troppo. Suo fratello John invece si è fatto costruire una tomba nel cimitero dall'altro lato della baia, con tutto già scritto sopra, tranne la data di morte, e ogni domenica va lì a guardarla. La maggior parte della gente non lo troverebbe particolarmente divertente, ma lui evidentemente sì. Le persone hanno idee molto diverse sul divertimento. Quanto a Norman Douglas, quello è proprio un pagano. Quando l'ultimo pastore gli ha chiesto perché non andava mai in chiesa, quello ha risposto: "Ci sono troppe donne brutte." Mi piacerebbe proprio andare da lui, signora dottore, a ricordargli seriamente che esiste l'inferno. Oh, Norman non ci crede, disse la signorina Cornelia. Immagino che capirà il suo errore quando morirà. Ecco fatto. Oh, ecco fatto, Mary. Per oggi hai finito la tua maglia. E adesso puoi andare a giocare mezz'oretta con gli altri bambini. Vai, vai. Mary non se lo fece dire due volte. Scese di corsa nella valle dell'arcobaleno con il cuore leggero e le ali ai piedi. E mentre chiacchierava con gli altri, raccontò a Faith Meredith quel che aveva sentito sulla signora Davis. La signora Elliot dice che potrebbe mettere tutti i Douglas contro tuo padre, e a quel punto lui dovrà lasciare Glenn perché non potranno più pagargli lo stipendio, concluse Mary. Non so proprio cosa possiamo fare, santo cielo. Se solo il vecchio Norman Douglas tornasse in chiesa e pagasse, non sarebbe poi così grave. Ma lui non vuole, e i Douglas se ne andranno, e dovrete andarvene anche voi. Quella sera Faith andò a dormire con il cuore pesante, e il pensiero di lasciare Glenn era insopportabile. Non avrebbe mai ritrovato degli amici come i Blythe. Il suo cuoricino si era già rattristato quando se n'erano andati da Maywater. Aveva pianto lacrime amare nel salutare i suoi amici e la vecchia canonica dove sua madre aveva vissuto ed era morta. Perciò il pensiero di un nuovo dolore ancora più grande del precedente, la turbava profondamente. Non poteva andarsene da Glen St. Mary, dalla cara valle dell'arcobaleno e da quel delizioso cimitero. Oh, è orribile essere la famiglia del pastore, brontolò nel cuscino. Appena ti affezioni a un posto ti sradicano subito. Non sposerò mai un pastore, mai, neanche se fosse la persona più gentile del mondo. Faith si mise a sedere e guardò fuori dalla finestra incorniciata dall'edera. Era una notte serena, il silenzio era interrotto soltanto dal respiro lieve di una. Si sentiva terribilmente sola al mondo. Guardò Glen St. Mary stendersi sotto il cielo stellato di quella notte d'autunno. Al di là della valle, a Ingleside, la luce della finestra nella stanza delle ragazze era accesa e anche quella della stanza di Walter. Faith si chiese se il povero Walter avesse di nuovo mal di denti, poi sospirò, invidiando per un breve istante Nan e Dee. Loro avevano una madre e una dimora stabile, non erano alla mercé di gente che si arrabbiava senza motivo e ti chiamava delinquente. Lontano, oltre Glen, tra i campi addormentati, c'era un'altra luce accesa. Faith sapeva che era quella della casa di Norman Douglas. Girava voce che passasse nottate intere a leggere. Mary aveva detto che se si fosse convinto a tornare in chiesa, tutto sarebbe tornato a posto, e allora, perché no? Faith fissò una grande stella che brillava sopra l'alta cima di un abete davanti all'ingresso della chiesa metodista. Ed ebbe un'idea. Era chiaro a tutti cosa bisognava fare, ma a farlo ci avrebbe pensato lei, Faith Meredith. Avrebbe risolto tutto. Con un sospiro soddisfatto, volse le spalle a quel mondo buio e solitario e tornò a rannicchiarsi accanto a una.